che io viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Inizio con una comunicazione di servizio che senz'altro ha un nesso con quello che sarà l'argomento di oggi. Sapete, abbiamo già le valigie in mano, saremo al mitologico Salone del Libro di Torino fra qualche ora. È il luogo imperscrutabile e impenetrabile in cui viene celebrata la summa, il Sancta Sanctorum dei cervelli e della creatività italiana. Non solo italiana ma anche straniera, ma gli italiani vanno lì, passeggiano, girano per gli stand, si contaminano con il profumo dei libri, toccano la cultura concretizzata nel prodotto cartaceo e posso dire finalmente qui si parla dei libri, qui ci sono libri, non è quel brutto, lontano, schifoso, orrendo mondo della televisione, delle veniline e via dicendo. Beh, in questo luogo in cui saranno celebrati, giustamente glorificati e entreranno nel mondo degli dei coloro che sono stati baciati la fortuna di essere autori riconosciuti e pubblicati, noi abbiamo aperto un pertugio, noi abbiamo creato una sorta di buco della batefaria da cui potrà entrare chiunque. Abbiamo dato visibilità, come avete sentito in questi giorni, a tutti coloro che tengono libri scellerati, chiusi, sigillati nel cassetto dei loro desideri inconfessabili. Abbiamo di tutto. Questa mattina mi arriva un meraviglioso trattamento sulla vedova di Caricamento, di una bellissima storia che inizia in un'estate torrida e soffocante. E poi un signore clandestinamente ha portato un plico qui a Radio 24 che contiene una sorta di zibaldone illustrato ad acquarello, La nascita di Venere, che addirittura in versi: Venere non è da una conchiglia nata ma dal mare, così è stata portata, Venere si generò con altra nicchia e via dicendo. Beh, di queste altre scelleratezze noi faremo invece gloria, li trasformeremo in libri, e in questo ci hanno dato un valido aiuto amici melogamani che hanno messo a disposizione le loro competenze per far sì che alla sagra dell'arrosticino, alla festa della salsiccia, alla ricorrenza del santo patrono, della Vergine Martire di tanti paesi d'Italia, quest'estate, questo Ferragosto, qualcuno di voi potrà celebrare la presentazione del proprio libro, perché gli amici di Telestampo, che è un stampatore di libri, che ha anche un sito internet, telestampo.it, regaleranno 50 copie stampate a 50 di voi che hanno fatto libri non così proprio indegni di essere letti. 50 libri, pensate, 5 di voi avranno 50 libri belli, stampati, con le copertine con il vostro nome, da poter portare al paesello quest'estate e da presentare. Penso sia un regalo meraviglioso, ma già altri editori si sono fatti avanti dicendo che stamperanno un libro di un fortunato vincitore. Quindi abbiate pietà, date quello che pensate che sia decente perlomeno e meritorio di essere stampato. Ricordo agli aspiranti scrittori di telefonare venerdì mattina in diretta, perché sarà il giorno in cui sarà espresso il nostro insindacabile giudizio. Non so su quali criteri, non so su quale motivo di corruzione che voi sarete capaci ben di mostrarci e appalesarci, ma questa mattina l'argomento è molto legato alla velleità di essere quello che non si è, al desiderio inespresso, alla possibilità di appartenere a una casta che confonde, che maschera, che toglie possibilità di evidenza di ogni demerito e rende tutti perfettamente degni di essere considerati gli dèi di questa generazione. Non so cosa ne pensa lei, io andrei avanti. No, ecco, qui entriamo nel merito. Beh, però sì, se sì, mi permette, che non vorrei neanche che lei, dottor Costanzo, se prestasse pure lei a questo gioco, diciamo. Quale, quale gioco? Non vorrei che in qualche misura, no, in qualche misura in questo paese ci fosse spazio soltanto a chi appartiene a certe conventicole, a certe consorterie. Perché fa così? Anche in televisione questo discorso che mi ha fatto. Perché sembra che soltanto si appartiene alla parrocchia, all'altra parrocchia. Mamma mia, ma che stai parlo come scrittore, ma come cittadino. Oddio, si sente male. E questa è la cosa che andava a dire. Massimiliano Parente: è peggio appartenere alla parrocchia, alla conventicola, o essere lo sfigato che vorrebbe starci dentro? Beh, sono due condizioni che si integrano, perché poi lo sfigato prima o poi riesce ad entrare nella parrocchia. E quindi, perché è fatta di sfigati. Perché è fatta di sfigati. E quindi non so cosa dei due sia peggio. Massimiliano Parente, autore della Casta dei Radical Chic, libro che esce oggi per i tipi della Newton Compton Editori, libro che è accompagnato da un grazioso allegato che è una facsimile di documento per querelarlo, quindi Procura della Repubblica, c'è già prestampato il testo della querela, quindi tutti i Radical Chic, tutti gli appartenenti alla Casta, alla Conventicola, che sono stati messi sulla graticola da Massimiliano Parente in questo libro, avranno già un prestampato per poterlo querelare. Quindi ti sei posto come San Sebastiano di fronte all'arciere? Beh, ho agevolato quello che magari qualcuno avrà intenzione di fare, perché poi c'è, non è che sono così spiritosi questi della Casta, se non sarebbero una casta, anche se è una casta molto astratta, però... Se li chiamiamo casta, però siamo come Castellitto, il padre di Caterina va in città, sì. Che poveretto, tutta la vita aveva fatto questo trattamento per un film, va in città dal suo paesello di fronte alla fabbrica inquinante, la figlia conosce amichette di scuola, figlie di Radical Chic, di attori, di registi, di persone che si muovono nel mondo della moda, di terrazzieri romani. Quindi spera sia grande occasione per far trasformare il suo trattamento in un film. Va al Costanzo Show, lo trattano come una bestia. E il Costanzo Show, che ormai è sparito come luogo di radicalizzazione della sciccheria, da cosa è stato sostituito? Qual è il luogo oggi in cui si manifestano questi residui di una casta che pensavamo estinta? Pensavamo che il Radical Chic non esistesse più. Massimiliano Parente nel suo libro ci dimostra che il Radical Chic non è che è scomparso, è semplicemente frammentato in tante sottocategorie. Ecco, qual è il luogo o i luoghi in cui oggi esistono e si alimentano i Radical Chic? Beh, ci sono vari luoghi, ci sono quelli più visibili, più in mostra. Stai in asse col microfono. Che sono più visibili, più in mostra, e sono quelli dove, per esempio, vediamo in televisione le semplificazioni televisive, la divisione tra buoni e cattivi. Il Radical Chic oggi è quello che sta sempre dalla parte del bene, un po' come cantava Gaber, che ho citato in epigrafe, è quello che sta sempre dalla parte giusta. Ma è sempre stato la parte giusta il Radical Chic? È sempre stata la parte giusta. Anche quando si fingeva antagonista, tuttora si finge, sì, antagonista. Tuttora poi è curioso, perché se guardiamo anche la politica, noi viviamo in un paese in cui il Presidente del Consiglio parla sempre dalle piazze e sembra l'opposizione, per cui non vediamo mai come un intervento da Downing Street o alla Casa Bianca, come fanno all'estero. Noi abbiamo il Presidente del Consiglio perennemente l'opposizione, e la sinistra che reputa sempre replica dalle terrazze, ma anche quando era al governo a sua volta faceva quella che era resistente pure all'opposizione. Quindi anche lì c'è tutto un radical chicchismo è l'ideologia rinnovata degli uomini e no di Elio Vittorini, per cui ci sono uomini e non uomini, bisogna sentirsi dalla parte giusta, e ci sono i cattivi e i buoni, gli indiani e i cowboy, fioriscono siti internet, Nazione Indiana, che è un sito letterario che... I pupazzi blu di Avatar, con i carri armati che li ammazzano. C'è sempre un motivo per essere dalla parte giusta. Per essere dalla parte giusta, semplificando, perché poi il concetto fondamentale, in realtà, al di là della categoria Radical Chic, è la semplificazione dei concetti, cioè la semplificazione che quindi rende il concetto abbastanza... Diciamo un primo principio: il Radical Chic odia la complessità, in realtà dovrebbe farsi, sì, apparentemente portatore di un mondo complesso, è l'oppositore di ogni bieca e burina semplificazione della natura, ma in realtà odia la complessità. Se entra nella complessità, il Radical Chic muore, scompare, si dissolve. E oltretutto pensa sempre di essere diverso. 800 24 00 24, questo termine che molte volte vedo impugnare in maniera veemente nelle email, nei messaggi, nelle proteste degli ascoltatori, beh, questa mattina definiamolo. Siete circondati dai Radical Chic? Siete voi Radical Chic? Non c'è nulla di male. Ammettete la vostra diversità, anzi con orgoglio. Mi piacerebbe fare il Pride dei Radical Chic una volta tanto, ma non lo fanno mai. Sono sempre mascherati da altre sigle, da altre etichette, da altri colori. Tu oggi la camicetta viola, potresti essere un Radical Chic che fa parte del popolo. Tu ce l'hai viola o sono d'accordo? Anch'io viola, siamo tutte e due viola. Noi siamo viola, apparteniamo al mondo dei viola, ma non siamo Radical Chic. 800 24 00 24. E non si vergognano, non si vergognano. Diga? Sì, dico che siete una manica di borazzi violenti, fascisti, fucilatori di gabbiani e cacciatori di extracomunitari, va bene? Tutta sta roba. Ma io non voglio avere niente a che fare con lei. Ma scusi, perché che ne ho fatto io? Che cosa mi ha fatto? Che cosa stanno facendo quelli come voi a questo paese? Ma quelli come noi? noi chi? Quelli che buttano l'immondizia in mare, quelli che vanno in giro armati, quelli che se ne fregano delle regole, che non hanno rispetto per le persone e per le cose, quelli che guardano solo la televisione, che hanno disprezzo per la cultura, che hanno votato per tutta la vita i partiti di governo. Senta, sa lei di quello che ho votato io? Io i partiti li ho votati tutti. No, mi consente un attimino, perché voi intellettuali vatteggiate tanto, parlate così sofistici, state sempre a analizzare, a criticare, a giudicare, ma non sai qual è la verità. La verità è che non c'è stata, capi più un cazzo. Fatabò! Allora, Massimiliano Parente, questo è Ferie d'Agosto, è la contrapposizione nel film di Virzì fra le due categorie. I coatti, cattivissimi, sparano all'africano, cioè la peggiore delle abiezioni, non sono anche antipaci, sono veramente, veramente cafoni insostenibili. I radical chic sono altrettanto sgradevoli, ancorati a questi loro principi, mai realmente vissuti, poi sono sempre fatti le ville sulle scogliere, hanno sempre inquinato, sporcato, occupato, deturpato i centri storici con le loro schifosissime figliolanze, mogli e dicendo, però hanno sempre mantenuto il principio dell'ambiente. Qua già tu individui delle categorie di ricostruzione del soggetto radical chic? Beh, già qui, per esempio, già sull'ambientalismo c'è tutto un radical chicchismo ambientalista che non finisce più. Pratesica ha scritto che lui non si lava mai, si con l'acqua e svalbidecci si lava i denti, le cose terribili per dimostrare che in realtà il radical chic mantiene anche attenzione all'ambiente. Ma, per esempio, se noi già prendessimo tutti quelli che sono andati in India e sono tornati cambiati e gli dicessimo di restare in India, avremmo già fatto una bella pulizia etnica. Belle città. I centri storici sarebbero puliti. Puliti. Questa è una proposta. Riavremmo possesso le nostre terrazze. Vi ha cambiato la vita l'India, stateci. Rimaneteci e noi. E questa è una proposta anche ecologica, no? Però questo. Poi c'è un radical chicchismo farmacologico, per cui i radical chic si non prendono medicine, prendono solo medicine omeopatiche. Certo, naturalmente. Io mi curo solo omeopatico. Mi curo solo omeopatico, che poi scopri che non si curano, cioè gli danno a uno danno una medicina per la pressione, prende lo stesso farmaco ma diluito. Anche ayurvedico, però. Ayurvedico. Si fanno intingere dentro delle tinozze di olio e poi dice stanno tanto bene. Però alla base poi cosa c'è? C'è il concetto dell'alternativo, che è sempre il solito vecchio concetto di alternativo, cioè è la medicina alternativa, ma alternativa a che cosa? Alla scienza. Ma senti, ma ormai anche i coatti, cioè io ho amici e amiche coatte, dicono te me vado a fare il percorso aromatico. Sì, no, vanno in qualche buia a Cairo, qua intorno gli dà un po' di sassi bollenti addosso. Anche loro però hanno questo status radical chicchesco. Beh, perché non è uno status, ecco, forse in questo non è uno status sociale, è uno status mentale, per cui ognuno, l'idea di essere, perché poi ognuno si ritiene diverso, questa è la cosa, che pensa che altrove ci sia un complotto generale, che è quello che ci sia una grande dittatura della scienza, della politica, ognuno è un'isola incompresa, eccetera, no? Come quando dicono andiamo nella natura incontaminata, cioè già se ci vai tu te la contamini, quindi non ci andare. Però al parco dell'Uccellina ci può andare solo pochissime persone, però io conosco andiamo all'Uccellina. Antonio. Buongiorno. Niente, io volevo rispondere un attimo alla sua domanda iniziale. Beh, secondo me è molto meglio appartenere, diciamo, alla casta dei radical chic, perché... Grazie, hanno delle case bellissime, non pagano niente d'affitto. Parlo per esperienza personale, perché come dicevo appunto alla signorina che risponde, io per un po' di anni ho fatto parte, diciamo, di un'elite, chiamiamola così. Con quali meriti? Esclusivamente tecnici, nel senso, cioè? Io facevo un lavoro particolare per cui... lo dica, perché questo punto... No, questo non gliela posso dire. Beh, è un lavoro indecente. Estremamente d'élite. Ma è indecente il lavoro? L'ho fatto per 20 anni. Il pusher? No, killer? No. Ci faccia capire almeno la categoria merceologica. Business elettronico. Sviluppo hacker. Il discorso è questo, che starne dentro, ma non è anche solo, quello, starne dentro fa comodo, quelli che stanno dentro poi, loro lo sanno che non è che siano tanto diversi dagli altri, però infatti alimentano... non si mettono mai in confronto, guai, come esatto, mai? Però alimentano... Lei provi a stare in una redazione radical chic e ambire a scrivere un pezzettino su un giornale, impossibile. Ho capito, sì. Però ecco, la mia risposta era solo questo. Quelli che stanno dentro lo sanno bene che magari non è che siano molto molto diversi dagli altri, però alimentano, diciamo, quest'alone del radical chic che può essere, diciamo, scelga lei il tipo, perché? Perché così mantengono di più i loro privilegi che ci sono. Infatti, e li chiama casta. È una tremenda per entrare nella cosiddetta elite, glielo assicuro. Ma cosa serve per entrare? Vediamo, non servono 4/4 di nobiltà. No. Qual è? No. È un'entrata per appartenenza. Parente del suo libro parla anche delle consorterie familiari di radical chic, nei premi letterari. Vabbè, sono sempre i figli, le mogli, le madri, i nipoti, le amanti. Sì, quello aiuta molto. Però, per esempio, nel mio caso era proprio un discorso esclusivo di essersi trovati nel posto giusto al momento giusto. E dopo uno basta che si lascia trascinare dalla corrente. E però deve essere funzionale alla corrente. Eh sì, ovviamente sì. Deve diventare, appunto, uno che aiuta la corrente a mantenere i privilegi. Possiamo fare una bieca e terrificante definizione anche rispetto al genere? È più facile per una donna entrare nella casta radical chic o per un uomo? Io immagino che l'uomo debba portare l'appartenenza politica, la donna debba portare l'intima d'azione. Questo, guardi, dipende dal tipo di categoria. Per esempio, se è una categoria, cioè se l'appartenenza è una categoria di tipo tecnico, no, uno deve essere proprio, deve saper fare quella cosa lì. E quindi se un uomo o una donna cambia poco. Certo, una donna bella sempre in tutti i campi è estremamente più favorita rispetto a un uomo. È chiaro questo, no? Per i motivi che lei giustamente. Perché sono dice. Anche marpioni radical chic, o fanno finta che loro non sono interessati, ma in realtà. Il fatto di far finta di non essere interessati fa parte proprio del classico radical chic. No? Massimiliano Parente, rispetto al nostro ascoltatore, hai qualcosa da aggiungere, puntualizzare, soprattutto la tua capillare ricerca nella cassa di radical chic che potrà dare categorie a quelle che lui ha semplicemente allucinato, mostrato a tratti leggeri? Beh, certamente le potrà frastagliare le categorie, perché poi non è una casta così, perché il bello di questa casta è che non è una casta così omogenea. Né omogenea né così facilmente identificabile, è anche mimetica. Sì, perché è scomparso il costume del radical chic, sì, la Clark, il calzone stazionato, esatto. La donna indiana, non c'è. Non c'è il costume del radical chic e si trovano a destra come a sinistra, per cui non è neanche una categoria politica, anche se magari è più facile identificare la sinistra piuttosto che a destra, per esempio. Però c'è un'emergenza di radical chicchismo di destra, molto palese. Ma sì, perché comunque sia, io mi ricordo nel 20 anni fa, forse 15, un Carmelo Bene contro tutti da Costanzo, bellissimo, e cui lui disse: ma cosa ce ne fotte a noi del Ruanda? E le facce degli ascoltatori, cioè del pubblico, impallidivano. Ma in realtà in quella provocazione c'era tutto, perché c'è anche una parte di verità nel... Lì fu bravo D'Agostino, però, che disse, mi ricordo: se tu non ci sei, perché ti tingi i capelli? Ah, certo. Beh, lì poi c'era appunto tutta la parte metafisica di Carmelo, metacorporea che... Gian Pietro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. L'ascolto sempre, la saluto viaggiando per lavoro e non Lei non è un radical chic, già dicendo viaggiando per lavoro la esclude dalla categoria. Beh sì, insomma, diciamo in parte, diciamo che per lavoro faccio l'artigiano, ma quello che mi piace sono altre cose. Ho un falegname meraviglioso, se vuoi te lo presento. Ho centrato, sono un falegname. Guardi, lei può entrare nelle case radical chic solo come falegname meraviglioso. Ci entro Nicoletti, non si preoccupi. Però è un restauratore in quel caso. Sì. Un artigiano. Senza niente, avevo semplicemente detto che, generalizzando, una definizione un po' orteghiana, però secondo me è il falso esemplare per antonomasia, che poi è trasversale, come dice il suo ospite. Beh, allora lei che li conosce, le ha bazzicati, se ne è contaminato, ci dia qualche dritta, aggiunga con la sua vivida esperienza qualcosa alle teorie di Massimiliano Parente. Beh, il radical chic anzitutto ha bisogno di un, diciamo così, di un corrispondente negativo per distinguere. Ma sono avari, sono tirchi? Molto, molto, è ovvio. Non scucciano un soldo, è vero? Assolutamente, anzi appunto la negazione è nella negazione della qualità del lavoro, dei rapporti, ha sempre bisogno di un referente negativo, ma per sostanziarsi. Non so. Beh, lei già è illuminato dalla grazia di entrare nelle loro case, di essere contaminato dai loro libri, di vedere le persone carine che loro frequentano, vorrebbe anche soldi, scusi. No, vede, la differenza è che loro propongono questa specie di filtro verso le altre persone della loro supposta superiorità, e chi come me si cela, si nasconde, non mostra di capire quello che loro stanno facendo, li legge bene, insomma. Ecco perché li definisco dei falsi esemplari. Melog 2.0. È pronto? Venite. Avevamo girato, avevamo girato, non è telefono. Come distante, ricorda di questo nome. Ha detto... Ma ci volesse veramente un'altra bella guerra. Signora Egno, Roberto, eravamo 4-5, insomma. Il mantra di Krishna è qualcosa di nuovo. No, Krishna è Rama. Rari è la potenza di felicità del Signore. Krishna è infinitamente... E dopo la presentazione del libro tutti a casa mia. Pochi d'artifici. Che ho riletto fino a oggi. Giorgio Bocca è sempre l'attacco di chi non vuole. Io mandò Giovanni. La sceneggiatura... Quasi. Gli ho pagato l'ultima rata della sceneggiatura 6 mesi fa. Ha detto che finiva stasera. 800240024. Stiamo parlando della casta di Ralka Schick, perché Massimiliano Parente ha scritto appunto un libro per la Newton Compton che riposiziona, riclassifica, aggiunge sottocategorie all'antichissima casta dei Radical Chic, che già a scuola nel 1980 nella sua terrazza in qualche maniera classificò questo luogo romano dove entrano e escono personaggi legati alla politica, legati allo spettacolo, legati soprattutto alla televisione. Il vero e importante elemento era quello del funzionario televisivo che poi morirà sotto la neve, una scena tristissima, perché declassato, il cui ufficio viene ogni volta rimpicciolito di un modulo. Di questa classe dei Radical Chic Massimiliano Parente ci fa una rilettura più adeguata alla contemporaneità. Cosa rimane di questi Radical Chic, Massimiliano, quelli legati al mondo della televisione? Cominciamo a vedere per macro aree la televisione, soprattutto l'area romana. Negli anni 60 era via Teulada, poi è diventato viale Mazzini, poi è diventato lo sparpagliamento delle terrazze romane in cui c'erano le autrici, le conduttrici, gli amici dei conduttori, la corte della conduttrice e i grandi direttori portati con l'autista sotto che vanno su, spadroneggiano per il periodo che a loro è permesso di tenere l'olivetta in mano e il bicchierino in mano, circondati da signore. Poi quando passano di mano, ahimè, sono molto più tristi, stanno nell'angolino e guardano con lo sguardo perduto oltre le piante di Mortella, non so, perché nessuno se li calcola più. Ecco, vediamo un po' rispetto alla televisione il nuovo Radical Chic come si colloca. Beh, il nuovo Radical Chic televisivo, anzitutto il telespettatore Radical Chic è ormai anche questo interclassista, non c'è veramente un, perché anche quello, cioè guardano un po' più o meno gli stessi programmi, anche se hanno divulgato una balla, che è quella che mi diceva l'altro giorno anche Lina Sotis, che io ho identificato subito un po' come Radical Chic, però lei infatti tramite Radical Chic ha detto: ma i Radical Chic non esistono più. E anche questa è l'idea, come la terrazza non esiste più, il salotto non esiste più, perché prima c'era, in realtà, questi luoghi di potere. Come quelli che dicono la mafia non esiste più. E come quelli che dicono esatto, che la mafia non esiste senza più. Senza fare accostamenti, che non voglio. Però, esatto. Negare luogo di appartenenza, una categoria, pur facendone parte, significa cercare di diluire l'aspetto di recriminazione nei confronti di questa categoria, come non esistono più. No, e questo però è una si chiamano diversamente forse. Si chiamano diversamente, forse bisogna. È un po' come la categoria, come dice l'arte non c'è più. Non è vero. Si mimetizzano per poter avere più spazio. Allora, per io poter direi che la prima caratteristica del Radical Chic, me lo suggerisce Fabrizio Intonti, è dire: io non ho la televisione, non guardo la televisione. Quello, certo, subito. Che era come la vecchia, quella io non ho il cellulare. Certo. Oppure, o io non guido la macchina, vado in bicicletta perché la macchina inquina. Però adesso è Radical Chic, anche è il contrario, perché c'è anche lo sdoganamento della televisione. Per cui il Radical Chic dice: io guardo l'Isola dei Famosi perché faccio outing. Per cui fa l'outing per poi fare, magari poi non guardare neppure, però è la stessa cosa del viaggio, tutti devono viaggiare per forza, tutti devono, cioè, quindi ci sono tutti, il cinema, si va tutti al cinema, tutti devono andare al cinema, devono essere ragionati sull'ultimo Osbetek, poi nessuno dice: ma perché ti è piaciuto questo film? Ti danno tutte le categorie, perché sono fantastico. Sono tutti critiche tutti critici cinematografici, ma senza una categoria estetica, per cui la regia è meravigliosa, e siamo rimasti sempre lì, cioè, con cose obbligatorie da fare, ma non sentiamo Clarissa. Clarissa, sì. Buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, grazie per la possibilità. Le volevo dare una soddisfazione. Almeno una, che poi almeno ne ho bisogno. Una. Allora, guardi, io sono una votante di centrodestra che va all'Uccellino, al Parco Naturale dell'Uccellino da più di 10 anni. Votare centrodestra non l'esclude dall'essere radical chic, eh? L'abbiamo invece appena detto. Sì, assolutamente. No. È pieno di radical chic di centrodestra oggi. No, però se lei venisse all'Uccellino, vede me che sto a litigare con una banda di radical chic di sinistra sulla spiaggia. Beh, questo è già il film di Virzì, già l'ha fatto. Bravo, infatti. Oltretutto volevo dire... Qual è il motivo del litigio? Il motivo del litigio è che evidentemente mi sto appropriando di un qualcosa che non mi appartiene, cioè perché l'Uccellina non è di tutti ma è di loro. Ma perché lei è coatta da aspetto? Perché come no, la riconosco? No, io sono una persona del tutto normale, una persona che lavora. E come si fa a vedere che lei non appartiene alla categoria estetica, del radical chicchismo? Perché rispetto a loro sono molto più bella. Si copre le tette. Pronto? Sì, no, dico, ho chiesto, faccio delle domande per capire da come... No, è provocatorio, lo capisco. No, oltretutto volevo dire una cosa. Il radical chic si distingue dal fatto, esistono, dal fatto che loro non si lamentano mai della crisi. No, non capisco come mai, cioè nel senso che... Perché sono... non pagano gli artigiani, non già sentono. Qualcosa c'è, perché o sono... Come hanno anche un'età fra i 55, 56... Quindi, lasci perdere. Vabbè, ancora convinti, sono quelli che fanno il conto di quanto gli manca la pensione. E in definitiva loro poi, come si dice, questa crisi è un qualcosa che non li tocca, perché evidentemente... Mi costringe a scarnificazioni gonadiche mentre parla. Capito? Per cui esistono, si appropriano dei loro servitori, hanno un'idea del mercato e della società tutta loro, s'accaniscono contro chi chiaramente la pensa diversamente da loro e contano questi benedetti giorni che mancano alla loro pensione, e io rispondo sempre: vabbè, mettetevi l'anima in pace, una donna come me pagherà il resto dei vostri giorni e la vostra pensione sarà pagata da una donna di centrodestra. Io credo che come legge di contrappasso sia... Ma lei da cosa si vede che è di centrodestra? Come da cosa si vede? Non mi ha ancora detto, lo sto chiedendo. Ma non è che è una cosa che si vede... No, perché se loro l'hanno attaccata distinto, hanno sentito come cani da tartufo. Probabilmente, io credo questo... che loro abbiano fatto come la volpe e l'uva, no? Abbiano disprezzato tutto quello che è borghese, anche nel senso migliorativo della perché parola. Lei ha il SUV parcheggiato questo ce l'hanno loro, io ho una macchina, c'ha 10 anni, per l'amor di Dio. No, è tutto quello che è, come si può dire, che diventa concreto, che diventa sforzo, che diventa iniziativa, che diventa ragionamento, cosa che loro non riescono a fare. Vabbè dai, la seguiamo perché va troppo per le lunghe. Buona giornata, Paolo. Pronto? Ecco. Ah, sono io, buongiorno. È un radical chic. Buongiorno a tutti, sono un radical chic. Ecco, buona fortuna per la sua scarnificazione gonadica. Che no, la signora no, perché sull'età prepensionabile che mi ha colto nel vivo, anch'io ho 55 anni, quindi io, non ci posso pensare. Diciamo, sono autocritico, nel senso che ritengo di essere radical chic e secondo me è in parte... Ma lei non c'ha l'R moscia, scusi, sono più io radical chic. No, infatti, però siccome abbiamo detto, e sono d'accordo su quello che avete detto, per cui la categoria è molto più invisibile e spalmata nella società, però secondo me quello che rimane di fondo è sempre la presunzione di superiorità intellettuale, questa penso che sia. Quindi lei sta facendo un coming out da radical chic, questo le fa onore. Sì, esatto. Quindi autocritico e quindi, ripeto, sinonimo anche di ipocrisia. Ma su cosa basavate questa vostra presunta superiorità intellettuale? Sull'appoggio, diciamo, una classe politica che ha sempre appoggiato i radical chic, perché in fondo ne era fortemente intrisa. Ma no, forse proprio questo, come si dice, contrapporsi così fortemente è ideologico ed è politico, la partenza è quella. Poi però comunque nella vita ci sono le riprove, per cui il film di Natale, queste piccole cose qua, l'automobile... Uno si rende conto che il mondo è variegato, senza fare l'apoteosi del burino, perché non sono nemmeno un populista. Ma Siano Parente, su quello che hanno detto questi due ascoltatori. Beh, volevo fare un'osservazione anche sulla idea del complottismo dentro cui si muove il radical chic. Cioè il radical chic vive in un mondo che è governato da un complotto, per cui denuncia continuamente la libertà di informazione. Ma questo lo dicevano anche i nazisti. Però c'era il nazismo. Tutte le grandi uccisioni alla libertà di pensiero hanno sempre creato il complotto contro cui bisognava combattere. Il complotto contro cui bisognava combattere ed è però Io combatto da tanto, andando anche sul personale e sullo spicciolo, io combatto ogni giorno contro il radical chicismo di chi vuole portarmi al mare, perché anche andare al mare è un obbligo. Poi ci sono quelli che amano lo scoglio, che io chiamo gli scoglioni. Cioè, perché giocare? Uno va al mare perché è scomodo, ti graffi tutto. Eppure dico, perché non vi fate i salotti con le punte? No, dice, amo lo scoglio. Oppure perché non giocano a racchettoni? Se giocano a racchettoni al mare, vuol dire che è una cosa cretina. Perché sennò ci giocherebbero anche nel salotto di casa. Ma anche i coatti giocano a racchettoni. In questo anche però fanno il doppio salto mortale. Fanno un doppio salto mortale, esatto, perché quello è un'altra cosa di 800 24 00 24, raccontateci nell'ultima parte della trasmissione il doppio, triplo, quadruplo salto mortale che fa sì che oggi il radical chic sia una categoria in perenne mimetizzazione. Melog 2.0. Papà, la valigia di mamma va bene, ma la tua no. Perché? Che c'è? Ma neanche gli emigranti vanno in giro così. Li abbiamo prenotato alberghi di prima categoria. Non puoi presentarti con questa valigia. Ma è una valigia forte, ci va un sacco di roba. Dai retta a me, buttiamo questa valigia e mettiamo tutto in un bel sacco. Come un sacco di patate. E non parlare sempre di patate, papà. Il sacco è bellissimo, ci va molta più roba ed è anche sì, più moderno. Piuttosto, levati quelle scarpe bianche e marroni che non sono estive. No, e che me metto? Ma cazzo, mettiti un po' più sciolto. Oggi la gente va in giro scalza. Queste erano le vacanze intelligenti, Alberto Sordi con la moglie chiattona viene mandato a fare le vacanze intelligenti con i radical chic, tanto la moglie si addormenterà in un museo e viene scambiata per un'opera di pop art. Siamo con Massiliano Parente, autore della Casta dei Radical Chic, libro uscito oggi per la Newton Compton, con cui, che porta allegata un facsimile di una querela. Chiunque può querelare Parente perché si sente offeso, irritato e colpito nel suo essere smascherato come radical chic. Ma per quanto noi stiamo cercando di definire radical chic, quello che ci siamo detti io e Parente nell'istante delle informazioni del traffico in realtà assomiglia un po' alla corte di Versailles, ma 50 anni dopo che hanno già tagliato la testa al Re Sole, quindi ormai non c'è più motivo di esistere, o perlomeno esistono in un loro sogno, in una loro illusione. È come le anime inquiete dei film delle case infestate, stanno lì, pensano di vivere, ma in realtà sono gli altri a vivere veramente. Loro ormai sono ectoplasmi, fantasmi. Sei d'accordo, Massimiliano? Sì, che però in questo essere ectoplasmi, io una ragione anche della querela allegata è che alla fine nell'essere mimetici vengono fatti dei nomi e cognomi. Per cui se nel libro vengono fatti nomi e cognomi, qualcuno viene si potrà risentire. Cioè, si fa un po' rodere. Nel senso che l'intellettuale italiano ha sempre fatto tutti i discorsi, cioè 50 anni di discorsi sul potere. Il potere, la retorica del potere, che è un modo per mantenere il potere, perché tu poi non nomini mai nessuno, per cui parli il potere, anche un po' parlare di Berlusconi è radical chic, perché sono tutti ossessionati a Berlusconi, sia i berlusconiani che gli anti-berlusconiani. Diciamo che, guarda, io sono totalmente scevro di ogni inclinazione politica, quindi non me ne può impippare di meno. Poi devo dire che il termine Berlusconi ha arricchito il lessico del radical chic di una parola fortissima. Bravo, perché tu dici Berlusconi e già sei dalla parte giusta. Cioè, perché Berlusconi è un po' come una volta era il fascismo, no? Tu dici sì. Davide il fascista chiunque. Adesso dai. Io l'ho vissuto negli anni 70. Esatto. Ogni cosa era fascista. Cioè, avevo questa penna che è gialla nera, dicevano fella fascista. Certo. Cioè, ogni cosa era proprio tutto. E quindi tu ti dichiari anti-berlusconiano e sei già pulito, no? Perché dalla parte ci sono, si ritorna al solito discorso, dall'altra ci sono i marziani, i cattivi, eccetera, da quell'altra ci sono i buoni. Poi però qualcuno lo voterà pure Berlusconi, perché evidentemente se no non possiamo non dire, cioè nessun berlusconiano. La signora prima che ha detto sono un elettore di centrodestra, tu sei rimasto quasi, dice com'è che, però perché lo dice, è orgogliosa di dirlo perché lo sente come frazione il dichiararlo. È che il radical chic di sinistra adesso è macerato anche in una sorta di autolesionismo palese come prova d'onore. Guarda le vignette di Vauro che dice fa le vignette contro i suoi stessi amici. Certo. Come se fosse un grande salto di qualità, quando in realtà è un ulteriore disorientamento del radical chicchismo. Sentiamo Nico. Eccomi qua. Velocissimi, voglio farvi parlare tutti. No, velocissimo, allora sono d'accordo che radical chic è carsico adesso, ha assunto comportamenti carsici. Telefonavo per un esempio successo nel 73. Ebbi chiara la sensazione di cos'era un radical chic. Era l'età dell'oro praticamente. Era l'età dell'oro, 14 anni, luogo, piccola città del sud, concerto degli Intilimani, che ovviamente erano appena scappati. Ero con un mio professore di lettere, un maestro del PSU, e già questo lo individua. Usciamo dal concerto, c'era la naturale calca, e questo professore, tutto precisino, un esempio per tanti noi guaglioni, disse: guaglio, la democrazia è una bella cosa, spingendo, ma il popolo dà fastidio. Beh, come dice nel Borghese piccolo piccolo Alberto Sordi, la libertà è una bella cosa quando lo iniziano la massoneria, peccato che ce n'è troppa. Piero. Buongiorno, grazie per avermi richiamato, a lei e al suo ospite. Io volevo semplicemente parlare di delle uniformi che esistono nei radical chic. Velocemente, perché guardi, c'è Emanuela su Facebook, dice che in realtà i veri radical chic siamo Massimo Parente ed io. Dice, mimetizzate con la camicina viola, ma anche voi... Io volevo semplicemente dire che la radical chic ha delle marche elette. Ci sono delle marche che possono essere acquistate e delle marche che non possono essere acquistate, indipendentemente dal prezzo. Ma il motivo è equo solidale oppure... No, il motivo è out, in e out, cioè mettere dei sì e dei no. Loro sono molte volte considerati da loro stessi dei depositari del giusto o dello sbagliato. Quindi vale ancora, dico perché ormai appartengono a categorie dell'esistere, non sono più... Vale la Clark, no la Nike, perché sono fatte con le mani dei poveri bambini. Attenzione, io che frequento molti radical chic e che amo perché sono miei amici dai tempi dell'università, io ho 42 anni, ne frequento tuttora molti, le dico, guardi che se io mi compro delle scarpe e vado a comprare delle scarpe indipendentemente dal prezzo e dalla marca, loro comprano, se posso fare dei nomi, le Mephisto francesi o tedesche, le Birkenstock, che un paio di sandali da straccioni costa 150 euro, però quello va bene, se io compro le scarpe di Gucci o quelle di Prada... È un quarto. Sono un cretino che sta alle mode, oppure l'abbigliamento understatement da montagna con delle marche sì e delle marche no, così come il SUV, cioè il SUV lei sicuramente è d'accordo con me che... è out tra i radical chic. Assolutamente. Però il Land Rover sgarrupato no. Che naturalmente fa più casino e inquina molto di più, certo, chiaramente, sì. Però i radical chic di solito non ha bisogno di automobile, ha sempre qualcuno che lo porta, che lo trasporta, è sempre passeggero il radical chic, anche perché lui non guida, perché lui non gli va, ha sempre una donna infermiera che lo porta in giro. Salvatore. Pronto? Sì. Volevo intervenire, fare un intervento radical chic. Il primo è che secondo me non esistono persone radical chic, ma atteggiamenti, e li abbiamo tutti degli atteggiamenti radical chic. E io, diciamo, confesso i miei, io a 20 anni leggevo il manifesto, adesso che ne ho 40 leggo il foglio. Però leggevo il manifesto e mi incavolavo, adesso leggo il foglio, ma il 30% non lo capisco, il 30% non lo condivido e il 30% diciamo mi fa riflettere. Vabbè, diciamo, questo si chiama sano e libero e proficuo masochismo. Ma siamo Parente, siamo in chiusura. La tua conclusione rispetto a quello stultimo ascoltatore? Beh no, se posso dare un messaggio corale, non radical chic, non procreate. Questo è un ottimo esempio per i radical chic, ma anche per gli altri e soprattutto... No, per chiunque, dicevo. Sì, per chiunque, non provate. Bene. E poi complimenti ai tuoi ascoltatori, che devo dire li hai allevati bene. Ma io non ho nessun merito. Dunque, io e Massimiliano Parente prendiamo la valigetta, ci andiamo a Torino, al Salone del Libro, dove sguazzeremo tra radical chic e quindi saremo felici. Vi abbiamo preso in giro anche questa mattina. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera. Alle 22:00.